Insomma, signor Mattei, si accusa di inserirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio. Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto a Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio è nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria. Mercoledì 16 settembre 1970. Sono da poco passate le 21. Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. In quei giorni sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei del regista Francesco Rosi. De Mauro sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere residenziale del capoluogo siciliano. Una delle sue figlie in quel momento vede tre uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Attenzione, ad un chilometro da Via delle Magnolie viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Gli investigatori frugano nella BMW e in uno scomparto interno recuperano degli appunti relativi ad una speculazione edilizia. Ora le inchieste e i servizi di Mauro attraggono l'attenzione degli investigatori. Nel tentativo di trovare la pista giusta che porti ai suoi rapitori, si ricostruisce la sua vita, la sua personalità. Quando viene inghiottito nella sua BMW, Mauro De Mauro ha 49 anni. È originario di Foggia. Durante la guerra si arruola nella decima masse di Junio Valerio Borghese. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, De Mauro aderisce alla Repubblica di Salò. Lavora anche all'ufficio stampa e propaganda. Si trasferisce a Palermo nel dopoguerra. Collabora al Tempo di Sicilia e al Mattino di Sicilia. Di certo De Mauro rompe con il suo passato. Cronista di ottimo livello, dopo aver fatto la gavetta per anni senza un contratto, sul finire degli anni 50 De Mauro viene assunto dal quotidiano L'Ora, dove si specializza nelle inchieste più scottanti sui fatti di mafia. Prima di scomparire, De Mauro attraversa un momento difficile sul piano professionale. Da un paio d'anni non si occupa più di mafia, cerca di trasferirsi alla redazione di Paese Sera, a Roma, ma senza riuscirci. Perde la collaborazione con Il Giorno. L'Ora decide di inviarlo a Messina per organizzare la redazione locale del quotidiano. Poi lo trasferisce alle pagine sportive come capo servizio. Nei giorni che precedono la sua morte, Mauro De Mauro parla con molte persone. È convinto di avere qualcosa di grosso per le mani. Qualcosa di grosso. Poco prima di sparire, Mauro De Mauro indaga sugli ultimi due giorni di vita del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Lo riferisce all'editore e libraio Fausto Flaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna alla figlia Junia. Ne parla con il collega dell'ANSA, Lucio Galluzzo, a cui dice che si sta occupando di un soggetto per un film di Francesco Rosi. E poi aggiunge, è roba da far tremare l'Italia. Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, mi disse che è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse, ah ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della tua voce che mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse, capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo, disse poi appena ti vedo ne parliamo. Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Mauro non ritorna a casa e a 17 giorni dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato. Una volta solo ho avuto paura, tanti anni fa, nel 63 mi pare, ora lo ricordo, per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio da Agrigento, guardi, ricordo il caso Tandoi. E ho ricevuto una telefonata, e la telefonata, la persona che lava il telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana senz'altro. Mi diceva a tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento, non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con due ballatoni, che in siciliano significa due grosse pietre, due massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi fine del nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta. E poi perché è tornato. Alle indagini si interessano tre investigatori, tutti uccisi tra il 79 e l'82. Il capitano dei carabinieri, Giuseppe Russo, il commissario della mobile, Boris Giuliano, il comandante della legione dell'arma, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le piste sono comunque divergenti. Secondo i carabinieri, De Mauro avrebbe scoperto un traffico di droga internazionale e per questo sarebbe stato eliminato dalla mafia. L'ipotesi viene sostenuta dal pentito Gaspare Mutolo, secondo cui De Mauro venne strangolato da killer di Stefano Bontate, il capo della mafia perdente. La polizia punta dritta alla pista Mattei. Il cassetto della sua scrivania nella redazione dell'Ora di Palermo risulta forzato. Non si trovano più nastri magnetici. Dal block notes e quegli appunti sono state strappate due pagine e mancano anche altri fogli più recenti che riguardano gli incontri avuti nella preparazione della sceneggiatura del film Il caso Mattei di Rosi. C'è un sospetto forte, un'ipotesi che non sarà mai approfondita. In quel nastro, in quei fogli, potrebbero esserci le soluzioni di due gialli, la morte di Enrico Mattei, la scomparsa di Mauro De Mauro. Ma il caso De Mauro non è ancora chiuso. Il pubblico ministero di Palermo, Giusto Sciacchitano, propone l'archiviazione dell'inchiesta, ma il giudice istruttore dello stesso tribunale, Giacomo Conte, l'8 aprile del 91 chiede alla procura un supplemento d'indagine. Vuole appurare il ruolo della mafia, i suoi collegamenti con i poteri occulti, l'estremismo di destra, i servizi segreti, la massoneria. Sul caso De Mauro il pentito Tommaso Buscetta si rivolge al giudice Giovanni Falcone e dice: della morte del giornalista Mauro De Mauro non so nulla, non è faccenda di mafia. Quando ne parlavo con i miei interlocutori questi sembravano stupiti e a un certo punto ho sentito dire in giro che la sua scomparsa è legata alla morte di un noto politico italiano. Credo che si chiamasse Enrico Mattei. Il punto centrale della morte di Mauro De Mauro resta l'incarico che il regista Francesco Rosi gli offre. La sceneggiatura del film Il caso Mattei. È lì che si concentra il buco nero della sua sparizione. Che cosa poteva avere scoperto De Mauro sugli ultimi giorni di vita del presidente dell'ENI, Enrico Mattei? La nostra Diana Fracchia ha intervistato il regista del caso Mattei, Francesco Rosi. La documentazione degli ultimi due giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi due giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del giorno e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo. Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Cristaldi ritenemmo di chiedere a Mauro De Mauro, che aveva già fatto delle collaborazioni di questo genere per il cinema dalla Sicilia, ritenemmo di chiedergli praticamente di allargare questa sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate. E quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro. Prima di scomparire, lei ebbe modo di incontrare Mauro De Mauro? No, io non ho mai incontrato Mauro De Mauro. Io lo conoscevo Mauro De Mauro perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo lo vedevo spessissimo, da un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui. Io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente. Ecco, lei fu mai sentito all'epoca della sparizione? E come no, sono stato sentito dal giudice Terranova subito. Il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tirò fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto, me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande, a conferma di quello mi fece vedere questi fogli. Che riguardavano gli appunti che lui aveva preso? Che riguardavano questi, ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati. Quindi non sono mai spariti quei fogli? No, no, non ci sono misteri. Magari De Mauro, durante la sua inchiesta in quei due giorni in Sicilia, ha scoperto qualcosa di clamoroso. Leonardo Sciascia, che è uno che se ne è occupato molto, era convinto che senza volere lui aveva messo il piede sulla coda del serpente, ora non si sa di quale serpente si parlasse.